Ciao a tutti, prima di tutto grazie per averci invitato. Cercherò di essere breve, anche se la storia del movimento in Val di Susa è molto lunga, però siamo tanti, quindi cercherò di essere molto breve. La storia della resistenza nasce più di 15 anni fa ormai, nasce in realtà da piccoli gruppi di tecnici, fondamentalmente tecnici che si informano su tutte le caratteristiche di questa nuova linea ad alta velocità che ci veniva proposta, che dovrebbe collegare Torino a Lione. E iniziano una serie di incontri per la popolazione, di spiegazione alla popolazione delle quali sono le quantità di traffico merci, traffico passeggeri che non giustificano quest'opera, quali sarebbero i danni ambientali disastrosi per la nostra valle, perché vorrebbe dire bucare montagne che, a parte che o sono piene di amianto o sono piene di uranio, oppure semplicemente ci raderebbero, ci toglierebbero completamente le falde acquifere, e noi abbiamo una valle che è anche coltivata, oltre al fatto che se sparisce l'acqua muoiono le piante e poi il dissesto idrogeologico sarebbe spaventoso, perché alla prima pioggia ci frana la montagna addosso. Quindi tutte queste cose sono state studiate da esperti, ingegneri, geologi, esperti di dissesto idrogeologico, economi, e l'hanno spiegata alla popolazione per anni, e in più hanno cercato questi esperti di convincere soprattutto i nostri amministratori. Quindi siamo arrivati ad una situazione in cui tutti gli amministratori si erano convinti, o pressoché tutti, che fosse un'opera assolutamente deleteria e disastrosa per la nostra valle. Nel frattempo ci eravamo anche resi conto che quest'opera, lo vedrete benissimo nel filmato che hanno fatto, che vedrete più tardi, quest'opera non è solo dannosa per la nostra valle, è un disastro per l'Italia, perché quest'opera costa miliardi di euro che noi pagheremo. Adesso io che sono un insegnante, in questo momento mi viene da dire che noi iniziamo a pagarle i danni che fanno queste grandi opere dai costi esorbitanti, perché poi da qualche parte si taglia, per esempio nella scuola, per fare un esempio a caso, e poi verrà la sanità e poi verranno le pensioni. Comunque, questi tecnici continuano questa serie di incontri, si formano dei comitati nei diversi paesini, si arriva al fatidico 2005, quando il governo decide che ormai non c'è più niente da fare, ormai si costruisce. Abbiamo discusso anche troppo, adesso arriviamo con la polizia e vi facciamo sgomberare dove vogliamo iniziare i lavori. Allora, le prime tre volte è stato un po' un teatrino, nel senso che sono venuti, ma in fondo c'era già una specie di accordo, hanno trovato la popolazione, e lì dove sono venuti, nei tre luoghi dove volevano iniziare i sondaggi, sono nati i nostri famosi tre presidi, per noi famosi, perché sono tre anni che queste casette esistono sul territorio, e da allora sono sempre popolate, e ci sono incontri, e ovviamente ci trovi tutta la documentazione sulla storia del TAV, ci sono riunioni popolari, insomma sono luoghi di grande partecipazione popolare, ancora oggi dopo tre anni e mezzo. E finché invece non hanno deciso di far sul serio, e quindi sono venuti con tanta polizia, sì, ma questa volta per menarci. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto particolare, quindi lì dove questi geni della strategia volevano sfondare, era una strettoia di montagna, e quindi in realtà in un centinaio o poco più di persone li abbiamo bloccati, perché loro venivano in salita, noi eravamo in alto, e quindi siamo semplicemente col peso dei nostri corpi non li abbiamo fatti passare. Però loro erano centinaia, veramente centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa, che sono arrivati lì nel cuore della notte. Questo avveniva nel 2005. E noi avevamo passato la notte in montagna, per quello eravamo già lì, ma sono arrivate alle 5 del mattino. Questo fatto che ci abbiano invaso con questa violenza la valle ha reso, non so, penso chiara a tutta la popolazione di colpo la violenza di queste opere, che non hanno nessuna giustificazione né sociale né economica né trasportistica, sono veramente una violenza di gente che vuole arraffare i nostri soldi, punto. Poi che nel farlo distrugga anche la nostra vallata o il nostro territorio, questo è indifferente, l'importante è arraffare i soldi pubblici. Questo fatto è stato evidentemente in quel momento chiaro a tutta la popolazione, perché da quel momento la Val di Susa è esplosa. Da quel momento migliaia di persone si sono riversate per le strade, hanno bloccato le strade, le ferrovie. Forse il nostro governo ci ha un po' sottovalutati al momento, tant'è che ha sperato di riprendere, di rifare la stessa operazione da un'altra parte, a Venaus. E quindi a Venaus, dove c'era gente che dormiva nel prato, ma poche decine, loro sono entrati nel cuore della notte con centinaia di poliziotti e hanno riempito di botte tutto quello che non si muoveva perché dormivano, erano studenti, pensionati, gruppo pace, gente che, insomma, questo tipo, questi feroci anarco-insurrezionalisti di cui parlano era la mia insegnante di liceo classico, la sua figlia che fa gli scout, questi erano, ma non sto scherzando, riempiti di botte nel cuore della notte. Io devo dire, con grande gioia, che io penso che chiunque l'abbia vissuto se lo ricorda come grande gioia, perché questo avveniva alle 3:30, 4 del mattino, alle 7 del mattino la valle era inchiodata, cioè ci eravamo svegliati tutti con telefonate, sms, contatti, eravamo in, la valle era scesa in sciopero, avevamo bloccato tutto, ma eravamo migliaia a quel punto, veramente migliaia. Non neanche noi ce lo aspettavamo, nel senso che i comitati che avevano lavorato per lungo tempo sul territorio non si aspettavano una risposta di questo tipo. In quel momento eravamo una forza immensa, uniti, popolazione, comitati, amministratori. È stato un grande entusiasmo che ci ha portato anche poi a uscire dai confini della nostra valle per andare a incontrare altre realtà che lottano per la difesa del territorio, per unire queste forze. Infatti avevamo fatto poi una marcia addirittura dalla Val di Susa fino a Roma, raccogliendo le istanze di tutte quelle realtà che lottano contro grandi scempi ambientali per portarli ai nostri governanti. E da quell'esperienza è nato il patto di mutuo soccorso. Di solidarietà e di mutuo soccorso tra tutte queste realtà, perché ovviamente è chiaro, l'unione fa la forza per scambiarsi esperienze, per far sapere a tutti quelli che difendono un pezzo di terra che non sono da soli, non solo non sono da soli, ma che sappiamo benissimo che quando difendono un pezzo di terra lo fanno per tutti, perché la terra è preziosissima e voi qui ben lo dimostrate, perché dove lo facciamo il vino se non abbiamo più la terra, e il formaggio e il salame, ma non sono cose da ridere, perché noi la stiamo distruggendo questa nostra terra italiana, che era abbastanza ricca, era dal punto di vista proprio territoriale. E adesso devo arrivare al dopo, però purtroppo, insomma, nel senso che in quel momento di grande unione tra tutta la popolazione e gli amministratori avevamo ovviamente dei momenti di divergenza, però sostanzialmente eravamo molto molto uniti e ci tenevamo a questa nostra unione perché era una grande forza. I nostri amministratori hanno deciso di partecipare al cosiddetto osservatorio, cioè a sedersi, a discutere al tavolo politico, col nostro governo e nell'osservatorio tecnico. Risultato, che non è stato tanto chiaro per noi come ci si è arrivati, sono entrati che il TAV non l'avrebbero permesso da nessuna parte in Valle di Susa e sono usciti che invece quasi quasi, forse forse, discutiamo di come farlo senza fare troppi danni. Ora, questo per il movimento Notav è stata una bella botta, perché c'era veramente un profondo rapporto di fiducia con i nostri amministratori, che in parte, guardate, c'è ancora, però il problema è che non sono stati chiari, nel senso che non ci hanno mai detto abbiamo una strategia, abbiamo un piano, abbiamo deciso che l'unico modo per salvare questa terra è in qualche modo contrattare con chi sta dall'altra parte. A noi hanno continuato a dire il TAV mai, da nessuna parte, però intanto hanno tirato fuori dei dati per cui sembra che ci sarà una saturazione dei passeggeri su quella linea, che non è vero, è un falso clamoroso, però loro hanno lasciato passare. Sono entrati in quello che è il tavolo delle compensazioni, cioè sono andati a prendere le compensazioni, accettare le compensazioni, e questo è chiaro che indebolisce la nostra posizione tantissimo. Insomma, a un certo punto c'è stata questa frattura tra la popolazione e gli amministratori, a un certo punto anche esplicita. Devo dire per fortuna che c'è stato un momento duro, perché sono anche sempre i rapporti personali in queste cose in ballo, e quindi c'è stato un po' di demoralizzazione. Per fortuna questa demoralizzazione è passata, nel senso che abbiamo deciso che gli amministratori faranno quello che credono, noi facciamo quello che crediamo, e quindi il movimento ha ripreso vigoria e forza, tant'è che siamo arrivati a organizzare proprio in questi mesi il nostro terzo grande cortile, cioè tutta una serie di incontri sul tema del inquinamento ambientale, della difesa delle risorse naturali, ma anche dei gruppi di acquisto solidale, della filiera corta, insomma tutti argomenti annessi e connessi alla non costruzione dell'alta velocità, diciamo le alternative possibili, eccetera. Una serie di incontri che dura da quasi 2 mesi, organizzata rigorosamente dal basso, cioè dal basso vuol dire tradotto da quelli di sempre, ma senza le amministrazioni, il che vuol dire che non c'hai una soldo, che i volantini te li metti tu, queste cose qua vuol poi dire. Perché anche è venuto benissimo, cioè è ormai più di un mese che continuiamo a fare incontri, sono sempre pieni, sono frequentatissimi, e tutto questo in preparazione alla manifestazione di sabato prossimo, del 6 dicembre. Ora, questa manifestazione per noi è importantissima, perché dobbiamo dimostrare e vogliamo dimostrare che il movimento non è morto per nulla, al di là di quello che dicono i giornali. La nostra idea non è cambiata di un millimetro, anche perché la nostra valle è fatta sempre uguale. I passeggeri continuano a non esserci, le merci continuano a non esserci, e quindi non riusciamo a capire perché dovremmo aver cambiato idea, e infatti non l'abbiamo assolutamente cambiata. Quindi se io posso chiedere una cosa qua, dove mi sento un po' a casa, e fate di tutto per fare pubblicità a questa nostra manifestazione, perché noi abbiamo vissuto anche tanto dell'appoggio della gente di fuori, forse anche perché il nostro è stato un movimento vittorioso e quindi ha dato entusiasmo a tanta gente, e quindi speriamo veramente di vedervi in tanti sabato prossimo in Val di Susa.